conti fatti. La storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Lo scorso 23 giugno la Gran Bretagna, attraverso un referendum destinato a lasciare il segno, ha deciso, come sappiamo, di uscire dall'Unione Europea. Ora, a distanza di alcuni mesi e in attesa che il governo inglese decida di formalizzare l'uscita, attivando in tal modo le procedure previste dall'articolo 50 del Trattato di Lisbona, si moltiplicano le incertezze sul futuro dei negoziati, che comunque si annunciano lunghi e complessi, tra ipotesi di hard Brexit e possibili vie di compromesso che matureranno da qui ai prossimi mesi. Oggi torniamo a occuparci di Brexit traendo spunto da un libro appena pubblicato dal Mulino, dal titolo La Gran Bretagna dopo la Brexit, curato da Gianfranco Baldini, docente di scienza politica all'Università di Bologna. Buonasera professore e benvenuto. Buonasera a voi. È una storia tutta particolare quella del rapporto tra Regno Unito e Unione Europea. Gli inglesi hanno aderito all'Unione Europea nel 1973, ma non agli accordi di Schengen per la libera circolazione delle persone in Europa, e non fanno parte dell'Eurozona, non avendo adottato l'euro come moneta comune. Eppure, far parte dell'Unione Europea ha portato notevoli vantaggi alla Gran Bretagna, con un aumento del 55% degli scambi con gli altri paesi membri UE e l'incremento degli investimenti dall'estero. La City di Londra, anche grazie alla partecipazione al mercato unico, è divenuta uno dei maggiori centri finanziari del mondo. Ora dovrà fare prima i conti con la Brexit. Fin dall'inizio, il rapporto tra Londra e il resto dell'Europa è stato dunque a dir poco contrastato. Quando nel marzo del 1979 entrò in vigore il sistema monetario europeo, il governo allora presieduto da Margaret Thatcher si oppose. Solo 2 anni dopo, il ministro delle Finanze e poi primo ministro John Major persuase la Thatcher ad aderire al serpentone monetario dopo un durissimo dibattito all'interno del Partito Conservatore. Da allora si procedette a tappe con numerosi stop and go ed emersero chiaramente nette resistenze da parte dei governi inglesi ad accettare i lenti ma progressivi passi che l'Unione Europea andava compiendo in direzione di una maggiore integrazione. John Major conduce il Regno Unito alla firma del Trattato di Maastricht nel 1992, non senza strappare importanti concessioni. La vittoria dei laburisti e di Tony Blair, primo ministro dal 97 al 2005, sembra inizialmente aprire maggiori spazi di distensione e cooperazione con l'Europa. Blair è un convinto internazionalista, ma il suo ministro delle Finanze, Gordon Brown, si oppone all'adesione alla moneta unica europea. Quando Blair lascia la premiership a Gordon Brown nel 2007, la firma del Trattato di Lisbona nel dicembre dello stesso anno suscita nuove polemiche e pone in luce il crescente euroscetticismo dell'opinione pubblica britannica. Il ritorno al potere dei conservatori di David Cameron coincide, anche per effetto della crisi dell'Eurozona, con il consolidarsi di un numero considerevole di euroscettici, inclusi molti deputati che si sono schierati apertamente per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Il resto è cronaca dei nostri giorni. Il 23 giugno vince il Leave. Per prime ad esserne sorpresi sono gli stessi sostenitori della Brexit. David Cameron, che aveva indetto il referendum, si dimette e nel terremoto politico che segue la Brexit il Partito Conservatore cambia cavallo e insedia a Downing Street l'attuale primo ministro Theresa May, che subito precisa: Brexit vuol dire Brexit, il popolo si è espresso e ora occorre assumere le decisioni conseguenti. Brexit means Brexit. The campaign was fought, the vote was held, turnout was high, and the public gave their verdict. There must be no attempts to remain inside the EU, no attempts to rejoin it through the back door, and no second referendum. The country voted to leave the EU. Allora, professor Baldini, abbiamo ripercorso brevemente la storia dei rapporti tra Gran Bretagna e Unione Europea fino alla Brexit, fino appunto ai giorni nostri. Cosa emerge dalla attenta lettura del suo libro? Sì, dunque. Dunque, nel libro noi cerchiamo di spiegare cosa è successo appunto il 23 giugno, come avete detto voi, un risultato in parte sorprendente anche rispetto a quello che dicevano i sondaggi di opinione, e però appunto è interessante ricordare anche che Theresa May aveva fatto campagna per il Remain, e quindi che il partito conservatore era spaccato, che lo stesso Cameron aveva vinto le elezioni del 2015 solo promettendo appunto questo referendum. Però appunto noi abbiamo sentito Theresa May dire che la Brexit significa uscire, però noi sappiamo che questo non si saprà ancora, non si sa ancora come avverrà. È di questi giorni la sentenza dell'Alta Corte che ci dice che il Parlamento deve intervenire, quindi il governo di May non potrà avviare le procedure di ritiro del paese, che ricordiamo secondo il Trattato di Lisbona richiedono ben 2 anni di negoziati, senza sentire prima il Parlamento. E qui il dato interessante è questo: si calcola che oltre 400 dei collegi inglesi e in oltre 400 dei collegi inglesi abbia prevalso su 550 il voto per uscire dall'Unione Europea da parte dei cittadini, laddove invece i parlamentari sono specularmente collocati dall'altra parte, cioè hanno sostenuto per la gran parte il Remain. Quindi chi decide? Il referendum del 23 giugno, il Parlamento adesso, il governo, insomma, la cosa è ancora da chiarire. Eppure, se noi guardiamo la storia dei rapporti tra Gran Bretagna e Unione Europea, molti sostengono che alla fine, poiché la Gran Bretagna stava, come dire, già con un piede dentro, un piede fuori, in sostanza questa decisione ha comunque accelerato un chiarimento. Forse da questo punto di vista almeno è benefico. Sì, certo, certo. Questo era un chiarimento che ci voleva, perché appunto era da 10 o 15 anni che si parlava di questo possibile referendum. Era stato promesso sul Trattato di Lisbona, ma poi Cameron non l'aveva potuto mantenere questa promessa, perché quando è entrato lui al potere nel 2010 il Trattato di Lisbona era già stato firmato da Gordon Brown, quindi un chiarimento era necessario. Rimane però il fatto che appunto c'è stato questo pronunciamento da parte dei cittadini, dopo c'è stata una richiesta di un nuovo referendum e ora c'è appunto questo giudizio. Il governo May ha fatto appello, quindi ci sarà un nuovo pronunciamento della Corte Suprema, questa volta fra un mese, probabilmente a metà dicembre, che dirà appunto se effettivamente il Parlamento deve essere sentito e come, perché anche qui non è chiaro come questo può avvenire. Se prima su un generico mandato a Theresa May appunto a chiedere a avviare i negoziati con l'Europa, o se invece non ci deve essere un successivo intervento sull'esito di questi negoziati. Eppure abbiamo assistito a faccende un po' particolari. Lei le cita espressamente nel capitolo da lei curato, Cameron e la spaccatura dei conservatori, sì, sull'Europa, quando ricorda che la prima volta nella storia britannica un primo ministro si è dimesso non per aver perso, sì, un'elezione, ma un referendum. Anche questo è un precedente abbastanza curioso. Assolutamente, questo ci dice di come la politica britannica si sia normalizzata, diciamo, con questa ondata anti-establishment che è presente in tutti i paesi europei, e con questo crescente utilizzo del referendum. Adesso in Italia la situazione è del tutto diversa, perché noi voteremo fra un mese sul referendum costituzionale, che è del tutto diverso, però in molti paesi europei aumenta il ricorso al referendum. Però appunto questo è una cosa senza precedenti, perché il precedente referendum che si era tenuto in Gran Bretagna nel 1975 era in un contesto politico totalmente diverso. La Gran Bretagna allora era in crisi e l'appena avvenuto accesso alla loro comunità economica europea era sostanzialmente condiviso e più appoggiato dai conservatori che dai laburisti, quindi la situazione si è totalmente ribaltata. Oggi la Gran Bretagna va meglio, diciamo, dal punto di vista dei dati economici della media dell'Eurozona, e però l'esito è stato quello che abbiamo detto. Lei poc'anzi, professor Baldini, citava l'articolo 50 del trattato, che prevede appunto negoziati lunghi. Qualcuno dice che dai 2 anni addirittura si potrebbe arrivare ai 5 anni. Non è un tempo un po' troppo lungo per definire poi una situazione che comunque va in ogni caso definita rapidamente? Sì, è vero quello che lei dice, perché appunto 2 anni sono già tanti e noi sappiamo quanto può pesare l'incertezza dei mercati in situazioni di questo tipo. Però è anche vero che siamo in una situazione senza precedenti, quindi noi non sappiamo che cosa può succedere, ci sono diversi scenari in campo, ma anche tutti i modelli vari che vengono fatti, da un modello di Brexit soft, come dire l'opzione norvegese per cui il paese può rimanere all'interno di fatto del mercato unico, contrastano poi con le esigenze più hard che la stessa Theresa May ha espresso nel congresso conservatore. Quindi è vero che i tempi sono una variabile molto difficile, però è anche vero appunto che siamo in una situazione senza precedenti. E devo dire che poi il governo di Londra dovrà anche fare i conti, non so con quali prospettive effettive, che però vengono ad esempio dalla Scozia, che ritiene, poiché ha votato per gran parte a favore del Leave, di riproporre a sua volta un altro referendum. Cioè, quindi c'è il rischio che si attivi anche una qualche turbolenza politica all'interno del Regno Unito. Assolutamente, questo era già avvenuto in parte 2 anni fa, quando la Scozia ebbe il primo referendum sull'indipendenza, in cui prevalse appunto invece l'opzione del rimanere parte del Regno Unito, e come spieghiamo nel libro, questa tensione territoriale, come la chiamiamo, è del tutto evidente oggi, perché ancora pochi giorni fa appunto Theresa May ha ricevuto Nicola Sturgeon, la prima ministra scozzese, e qui è emersa la volontà della Scozia di rimanere dentro a tutti gli effetti, perché il paese, appunto perché la regione, la nazione scozzese, diciamo così, ha votato in maniera compatta per il Remain, e quindi queste tensioni sono destinate a rimanere, insomma. Le chiederei, professore, in conclusione, un giudizio, traendo spunto da uno dei capitoli del libro, che si intitola «È proponibile e opportuno un secondo referendum sulla Brexit?». Cioè, è proponibile? Ecco, guardi, questo è appunto uno degli scenari che tornano proprio di attualità in questi giorni. Se per caso il governo fosse in difficoltà ad avere una compagine parlamentare a sostegno della propria intenzione di attivare la procedura della Brexit, potrebbe esserci questo scenario di nuove elezioni nel 2017, che è più complesso perché c'è stato un cambiamento sui poteri, di fatto che il primo ministro aveva un tempo solo di chiamare elezioni anticipate a piacimento, cose che non ha più, quindi questo attiva procedure complesse da un punto di vista parlamentare. Però se ci fossero nuove elezioni potrebbe anche prospettarsi l'idea di avere un nuovo referendum, cosa che era stata chiesta da una petizione da oltre 4 milioni di cittadini pochi giorni dopo appunto il referendum del 23 giugno. Rimane il fatto che ci sono anche qui delle incertezze, e soprattutto il fatto che il Labour Party nei sondaggi oggi è molto indietro rispetto ai conservatori, e quindi non è affatto detto che se ci fossero nuove elezioni in primavera poi la situazione cambierebbe. Bene, benissimo, professor Bandini, la ringraziamo molto, autore, lo ricordiamo, del libro La Gran Bretagna dopo la Brexit, pubblicato dal Mulino. Buona serata e grazie. Grazie a voi, buonasera.